sempre avuto un quoziente di intelligenza leggermente superiore alla media, diciamo. Ora, così la cagarella degli esami, eccola là, che ma tu chiedi a me, i due movimenti. Ma se te lo dico, chiedi a me, che so. Intanto la promuovo e lei ufficialmente fa parte del corso di laurea in medicina e chirurgia, perché fa tutto sul reflusso. Me la laurea qua sul campo? Un bel prendellone se lo merita. Come mai sole? Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani, e con questa così. E con questa. Se qualcuno chiede a me cosa mai è l'R3, qua ti volevo, cara mia, però ti posso dire che cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Just arrived in Italy, I'm here in Milan. Tried to buy a coffee but couldn't get it done. Tried to buy some water, they gave me some good wine. Man, I've got enough of this, I gotta change my life. Colleagues at the counselor said, you've gotta learn. You've got a good teacher, you'll speak by the end of term. Found her on the phone, let's set up a meeting now. Gotta speak Italian, I just don't know how. Oggi, 4 luglio, gli americani celebrano la festa di indipendenza e il consolato degli Stati Uniti a Milano ha pensato bene di augurare buon compleanno all'America con questo rap che state sentendo. Il video lo trovate sulla nostra pagina di Facebook. L'idea è nata per insegnare agli americani che vengono in Italia i gesti fondamentali per comunicare. Infatti la gestualità è uno dei nostri tesori, una sorta di made in Italy con i gesti. Parliamo, spieghiamo, sottolineiamo, e parlo dei gesti che noi facciamo consapevolmente. Ma ci sono tutta una serie di gesti che facciamo senza rendercene conto. Magari sono delle espressioni che assumiamo con la mimica facciale oppure con la nostra postura. Allora, tutto questo insieme è il linguaggio non verbale, che parla molto di noi, forse dice più di tante parole. Allora, gesticolate, guardate in modo particolare, cogliete i dettagli, vi rendete conto che la vostra postura cambia in alcune situazioni, forse ve lo fanno notare le persone a voi vicine. 800 24 00 24. Enrico Pagliarini ci faceva notare, Deborah, parlate sì. Di gesti alla radio. Sì, perché è una, come dire, disciplina, non so se chiamarla così, molto affascinante, quella dello studio della gestualità degli altri, ma anche della nostra. E noi devo dire che ci muoviamo, altro che non mi parlare di movimento stamattina che ho l'acido lattico fino sulle orecchie. Allora, se negli Stati Uniti è il 4 luglio ed è il giorno dell'indipendenza, ricordo agli appassionati di borsa che oggi Wall Street è chiusa perché là festeggiano tutti, anche qui in Italia questa è una data interessante per molti. Forse soprattutto per molte di voi all'ascolto. Il motivo è molto meno alto e nobile, ma nobile a suo modo lo è perché nei saldi estivi vengono riposte molte speranze per la ripresa del nostro commercio. Poi abbiamo anche gli 80 euro in busta paga e molti, insomma, confidano nel fatto che si traslino dalla busta paga, dal conto corrente, ad un saldo. Acquisto. Esattamente. Allora, 4 luglio, vigilia dell'inizio dei saldi, anche se in un paio di regioni sono già iniziati, in Campania in particolar modo, perché nella maggior parte del paese partiranno proprio domani. Allora, 800 24 00 24, iniziate a raccontarci se comprerete oppure no, quanto siete disposti a spendere e soprattutto per che cosa, di quale capo siete a caccia. Potete scrivercelo anche in un messaggio al 349-238-6666 su Facebook o su Twitter. I gesti, gli sguardi o i sorrisi contano più delle parole che si dicono. Uno studio condotto da John Gottman ha mostrato che l'impressione immediata che si ha di una persona deriva per il 55% dall'aspetto e dal linguaggio del corpo, per il 38% dalla voce e dal modo di parlare, per il 7% dal contenuto della conversazione. Benissimo, allora noi oggi lavoreremo su quel 55% sul linguaggio del corpo. Ci faremo aiutare dalla dottoressa Tatiana Torti, che è qui in studio con me. Sì. Laura Vanossi ha già fatto la foto. Cosa fa? Ah sì, ecco. Per cui la potete anche vedere. Cosa ha fatto Laura? La dottoressa Torti è psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienze della Clinica della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni in provincia di Como. Esatto, buongiorno a buongiorno. Tutti. Buongiorno. Lei l'ha visto il rap? Assolutamente sì, ma io l'ho anche fatto con i miei gesti, proprio l'ho imparato. Ah. Perché? Si è riconosciuta? O... Io mi sono molto riconosciuta. Perché la musica aiuta. La musica aiuta. Infatti partiamo subito da questo. Questo è un rap molto carino, molto travolgente, fatto su una musica. Quindi non solo ci sono i gesti che vengono spiegati, sono 16 gesti proprio tipici di noi italiani. È come se fosse un SOS Tata, un breviario. Sì. E poi è fatto su una musica. Quindi non solo c'è un movimento delle mani, ma c'è anche un movimento del corpo. E questo aiuta alla memoria a consolidare determinati gesti, quindi contenuti del pensiero, del linguaggio. Quindi facile da imparare. Facile da imparare, e abbiamo detto, sono gli italiani gesticolano, un popolo di gesticolatori. E ce lo fanno notare, lo notano tutti quanti sempre subito. Stiamo no? gesticolando anche adesso. Assolutamente sì, sì. Esatto, noi un po' per argomentare quando parliamo davanti a un microfono, io utilizzo molto per soffermarmi su certi concetti con la mano. E poi quando Deborah mi dice dobbiamo scrivere, lei mi dice scrivere ma muove le manine come se avesse la tastiera sotto. È un facilitatore proprio, no? Sì. Vedi? Perché vuole facilitare la mia comprensione, esatto. Soprattutto dirmi fallo. No, vabbè. Vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se sono dei gesticolatori, se sono consapevoli della forza che ha il linguaggio non verbale, il linguaggio del nostro corpo, dove posano l'occhio quando incontrano una persona, perché si dice la prima impressione è quella che conta. Esatto. Lo sappiamo tutti e a volte da questa idea ci facciamo un po' condizionare. Ma ritornando ai gesti, dottoressa Torti? Beh, direi che sono un vantaggio culturale da sempre, storicamente determinato, soprattutto in Italia, data appunto la storia di questo paese che è diviso in regioni, è stato diviso in regioni, pensiamo a quando si è unificata, e quindi quanto i gesti hanno aiutato le persone provenienti da molte regioni diverse a capirsi. Sostanzialmente il gesto precede la parola ed è quello che accade nei bambini, per esempio, quindi è un vantaggio storico culturale, direi filogenetico, cioè deriva proprio da uno sviluppo della persona e poi anche del popolo. Il gesto che cos'è? Io lo potrei definire un balletto delle mani. Prima Deborah diceva appunto una disciplina, esattamente così, è una disciplina che però abbiamo geneticamente determinato, quindi nessuno ci spiega, ce l'abbiamo, la usiamo senza troppi problemi e non ci domandiamo neanche tanto che cosa vogliano dire le cose che facciamo. Il punto è che ad oggi ci sono delle discipline che ci fanno vedere invece che tutti i gesti hanno un significato e ci possono aiutare ad utilizzarli nel momento giusto, perché quindi... ci sono... nei momenti più di altri in cui io devo poter gesticolare oppure gesticolare in un certo modo e altri invece in cui devo stare piuttosto ferma. Con le mani in mano, con no? Le mani in mano. Con le mani ferme. Ferme più che altro, anche se poi tendenzialmente anche se le mani sono ferme il corpo si esprime lo stesso, quindi la postura del volto, della schiena, delle braccia al di là delle mani indicano chi siamo, cosa stiamo facendo, che ruolo abbiamo, che status abbiamo. Ci sono delle persone che non sanno mai dove tenere le mani, se siete tra queste, soprattutto quando sono imbarazzate, le vedi perché le mettono un po' dietro la schiena, le provano a metterle di lato. Io avevo un fidanzato che si toccava il naso quando era imbarazzato con me per qualche motivo. Questi sono gesti abbastanza inconsapevoli, simili ticcosi, tic, i cosiddetti tic, anche se non sono dei veri e propri tic per carità, poi esistono invece proprio i tic veri e propri, che sono inconsapevoli, quindi noi li facciamo un po' perché siamo tesi, un po' perché appunto derivano comunque da un sistema neurologico che a volte va un po' per i fatti suoi, può fare anche questo effetto. Certo. E allora 800 24 00 24 supportate un po' le nostre considerazioni sul tema della gestualità. Volevamo anche ricordare che prima del consolato americano a Milano anche il New York Times aveva dedicato un intero servizio alla nostra abitudine di muovere le mani mentre parliamo. Non hanno nient'altro di cui occuparsi questi qua, perché tutti ci copiano, ci ammirano, siamo straordinari, quindi sottilmente c'è anche un po' questo sentimento di ammirazione. Devo dire che faccio una parentesi che il fondatore di Facebook che cosa fa? Zuckerberg ha creato un gesto universale, che è quello del mi piace. ormai certo. E dove l'ha preso? Da noi. Hai visto? Questa non la sapevamo e adesso sappiamo anche questa. Allora, vogliamo chiedere intanto di raccontarci quali sono i gesti che vi fanno entrare in sintonia con una persona, che ve la rendono simpatica, che vi ispirano fiducia, ma anche raccontateci quali gesti e atteggiamenti invece vi allontanano, quelli che vi insospettiscono, vi urtano, vi maldispongono. Troveremo, come ha anticipato la dottoressa Torti, una spiegazione e anche una soluzione. Ad esempio, anche solo il modo di stringere la mano, ci sarebbe da parlare per un'intera giornata. Tu l'hai fatto in passato tante volte con Essere Benessere. Il modo in cui ti danno la mano, in cui ti avvicinano, la stringono, c'è la mano, la stretta di mano energica, quella un po' moscia. Che ho saputo che mollina. Non va bene neanche, anche troppo vigorosa, in realtà è segno anche quello di qualche cosa che non funziona. Può essere un significato relativo un po' di aggressività o di dominanza, diciamo così. In realtà tutto quello che è estremo nella natura psicologica e comportamentale è fuori luogo. Quindi sia nel caso della stretta troppo forte sia in quella del caso troppo debole. Allora devo avere una stretta, si dice, assertiva, cioè abbastanza forte ma anche non stritolante, diciamo così, no? Se no fai male. E quindi stringeteci le mani all'800240024 e noi la stringiamo a Luca Vullo, che è produttore. Mamma mia, quante ne fa. Regista. Documentarista. Ha girato La voce del corpo. Ed è anche professore di linguaggio del corpo al King's College di Londra. Luca, buongiorno e benvenuto, che ci ha già twittato questa mattina, ho tenuto sotto controllo Twitter. Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a voi, mi dispiace non potervi abbracciare tutti, però ok, farò questo sacrificio. Tutte, però... perché siamo tutte donne, furbino. E allora, Nicoletta, Luca, che cosa gli chiediamo? Luca, tu insegni il linguaggio del corpo agli stranieri. Hai fatto della gestualità, perché tu sei siciliano, mezzo siciliano come me? Sì, esattamente. Quindi hai fatto di questo un lavoro, in fondo. Ieri parlavamo di lavoro con Deborah, abbiamo fatto una puntatona per i giovani che sono in cerca di lavoro, a volte i lavori anche si inventano. Anche su come presentarsi, Ecco, e Luca ti sei inventato questo lavoro, è così? Beh, in pratica è arrivato da solo, nel senso che al momento in cui ho cominciato le proiezioni del mio film sono arrivate delle collaborazioni importanti, come ad esempio il National Theatre di Londra e poi diverse università, hanno cominciato a chiedermi proprio dei workshop pratici, se era possibile insegnare agli studenti di italiano la possibilità di usare il corpo e quindi di imparare a conoscere i segni italiani e quindi questa fantastica capacità di comunicare con il corpo. Da lì è partito tutto. Perché a catena si è divulgato nelle diverse università inglesi e poi dall'Inghilterra ho cominciato a volare in altri paesi, per cui sono stato in Australia, in Danimarca, in Germania proprio di recente, e questo è un meccanismo che incuriosisce tantissimo, perché la gestualità è una cosa che è sempre stata vista come folcloristica in genere degli stranieri, ma se questa viene spiegata in modo molto specifico e linguistico come un codice articolato, complesso e affascinante, stai tranquilla che il fascino, la curiosità delle diverse culture che non hanno questo nel codice genetico c'è ed è fortissimo. Luca, qual è il gesto che ti ha più impressionato in tutti quelli che hai incontrato e quello più imprevedibile, quello che davvero non ti saresti mai aspettato? Bella domanda. In realtà ci sono dei gesti, per esempio adesso in Germania ne ho visto uno per esprimere la pazzia o comunque la stupidaggine, che è molto simpatico, perché bisogna passare la mano aperta con il dorso verso l'esterno e passarla velocemente. Intanto stiamo cercando di farlo, Luca, tu proprio non ci stai, ecco. Ah sì, carina. Come per dire, sei fuori, con un balcone. Esatto, ma sei fuori, una roba del genere. Però la cosa divertente è che in realtà in altri paesi ho riscontrato la differenza di significato di alcuni gesti, quindi bisogna stare molto attenti ad usare alcuni gesti in alcuni paesi. Dicene un paio, perché sai, con Deborah viaggiamo molto, Quindi, bene, allora guarda, non è vero, ma insomma sta sempre qua dentro. Una cosa divertente che successo in Albania, per esempio, in un tour in Albania, il semplicissimo e banalissimo gesto dell'ok, no? Con proprio le tre dita in alto e l'indice pollice chiuse a cerchio, ok, no? Che in realtà non è molto italiano, volendo, è un po' più internazionale, però questo gesto qui per noi è un ok banalissimo. In Albania è meglio non usarlo, e mi hanno vivamente sconsigliato di non usarlo perché significa andare a letto con tua mamma. Ah beh. Ma certo, beh. Paese che vai, gesto che trovi, insomma, esatto, e significato dietro. Stare attenti. Mai capito, pensa che cose interessanti che... Ma no. qualche gesto lo hai cambiato dopo aver appreso che cosa fanno gli altri? Chiaramente qua in Albania abbiamo capito che il gesto dell'ok non lo dobbiamo mai usare, ma ecco, ma adesso stai più attento a quando ti muovi con le mani, Luca, o a quando argomenti qualche cosa con qualche amico, collega, insomma sei più attento a come gesticoli? Beh sì, sono diventato quasi morboso nell'osservazione di quello che faccio e creo anche un effetto a catena di auto-osservazione e auto-analisi, per cui chi mi incontra poi è inevitabile che successivamente si controlla molto di più, si osserva molto di più, e ogni tanto mi arrivano anche delle email, dei messaggi di amici o persone che ho incontrato in questi miei percorsi che mi dicono: non riesco più a fare a meno di verificare come comunico con gli altri, come gli altri comunicano con me. Quindi secondo me questo è anche interessante per concentrarci su quello che avviene nella comunicazione non verbale quotidiana in tutto il pianeta in modo più attento, perché si riesce anche a capire il messaggio che arriva dall'altra persona. A volte, se noi stiamo attenti ai gesti, alla mimica, scopriamo che ci potrebbe essere una discordanza tra quello che la persona ci dice e quello che invece dice il suo corpo. Luca, prima di salutarti, come stringi la mano? Qual è la tua stretta di mano? Beh, lui dirà perfetta. No, rispetto a quello che dicevate prima, è una via di mezzo tra l'energico, ma di sicuro non è flaccida, non è moscia. Non è stritolante, non è moscia. Allora, esatto. E intanto lo chiediamo ai nostri ascoltatori: qual è la vostra stretta di mano e qual è la stretta di mano che vorreste ricevere oppure che vi infastidisce? 800 24 00 24, salutiamo Luca Vullo e salutiamo anche Liliana che ci chiama da Vicenza. Liliana, buongiorno. Buongiorno, intanto la mia stretta di mano è forte. Brava. Allora, intanto vi faccio i complimenti, voi siete simpaticissimi, vi ascolto tutti i giorni. Grazie. E poi io volevo sapere, allora, quando io premetto che quando parlo con le persone io non so mai dove tenere le mani, e quello è discusso. Sì. E soprattutto non riesco a sostenere lo sguardo, proprio a guardare in faccia per tanto tempo la mia interlocutrice, proprio arriva a un certo punto che mi viene da guardare da tutte le parti fuorché la persona. Che è la persona, proprio, e questo è proprio più forte di me, Liliana se ne rende conto, e Liliana sa anche che questo suo atteggiamento potrebbe essere mal interpretato, perché avere di fronte una persona che non ti guarda negli occhi mentre ti parla, esatto, o mentre le parli, può darti l'impressione della persona sfuggente. A volte, come dimostra Liliana, dottoressa Torti, non vogliamo farlo ma non riusciamo a trattenerci dal farlo. Certamente. Io direi che Liliana ha toccato uno dei punti fondamentali della comunicazione non verbale, cioè il contatto oculare. Come dicevo prima, non ci sono solamente le mani, noi parliamo in maniera olistica, cioè globale, parliamo anche con gli occhi. Quindi Liliana dice: io ho una stretta di mano forte, benissimo, indica che è una persona comunque che si sa, come dire, presentare, imporre in qualche modo. Lo sguardo deve essere anche lì molto naturale, non deve essere assolutamente serrato, quindi occhio sbarrato, quello no, indica aggressività. Un occhio naturale che può deviare. Tutti noi facciamo delle oscillazioni mentre ci guardiamo un po' magari in alto, in basso, e poi torniamo sull'interlocutore. Il mio consiglio è quello di non fossilizzarsi sulla necessità di guardare l'interlocutore dritto in faccia per forza, ma di tornarci come punto di appoggio. Quindi il primo esercizio è questo: ci torno appena mi rendo conto che ho deviato lo sguardo, ci torno appena posso. Hai visto? Liliana l'abbiamo sistemata, le abbiamo dato questo compito, perché noi possiamo sempre, individuata una nostra caratteristica, non voglio dire problema, prenderne consapevolezza, come dite voi psicologi, esercitandoci. Teniamo conto che il cervello è un organo che apprende, e apprende fino a quando abbiamo 100 anni, non smette mai, quindi possiamo modificarlo lentamente, gradualmente, con l'esercizio, partendo da esercizi molto piccoli, quindi ripeto, tornare sugli occhi come punto di appoggio senza farsi troppi problemi. La stretta di mano di Giuseppe è molto forte. Che cosa vuol dire? Però lo diremo tra poco, perché adesso è tempo. Sì, di già, le 11:28. Sì, posso anche suggerire di affrontare dopo il classico atteggiamento di chiusura, ma braccia conserte, perché ecco. E poi Nicoletta lo sa che quando io mi chiudo, trac, eccoti qua che serro le braccia. E poi vorrei anche affrontare con lei il problema delle spalle e delle gambe. Io ad esempio non posso dirlo, perché poi gli ascoltatori, c'è un ascoltatore che mi scrive sempre i messaggi quando Laura mi fotografa e vede che ho le gambe triplamente attorcigliate, che non si deve fare, ma forse anche le gambe così sempre un po' in movimento attorcigliate vogliono... La vedo in positivo, gambe molto magre che riescono ad incrociarsi molto bene. E vai. Cuore e denari. Amici napoletani, abbiamo parlato di 4 luglio come vigilia dei saldi, ma la stagione dei saldi estivi 2014 si può dire che sia già ufficialmente partita, perché a fare da apripista, a dire il vero, è stata proprio la città di Napoli mercoledì 2 luglio insieme a Potenza. Se siete di queste città, raccontateci chiamandoci all'800 24 00 24 o scrivendoci al 349 238 6666 se avete trovato delle buone offerte, avete approfittato di saldi, avete già comprato qualcosa. Se vi va, fate una foto al vostro acquisto e condividetela sui nostri profili Facebook e Twitter. Se invece i saldi li state aspettando, a partire da domani, fotografate quel grande acquisto che avete fatto magari l'anno scorso o l'anno ancora prima e che ricordate tuttora come un affarone. Quest'anno proverete a ripetere il colpaccio? Vi aspettiamo con i consigli per la stagione dei saldi a partire dalle 11:45. Sei un amico, ti stringo ma se chiedi un aiuto ti tengo la mano e prendi la mano e dammi la mano e prendi la mano e dammi la mano. E torniamo a parlare di linguaggio del corpo in attesa dei saldi, perché anche quello che indossiamo però parla di noi, e come, ma di questo parleremo nella seconda parte della trasmissione. A proposito di linguaggio del corpo, c'è chi si concentra su un dettaglio, gli occhi, chi su un gesto, la stretta di mano, chi invece lavora diciamo con uno sguardo d'insieme. Cosa ci dicono tutte queste differenze? Vogliamo anche chiedere, oltre al tipo di stretta di mano che vi fa, che offrite e quella che vi fa piacere offrire oppure vi allontana, se siete tocchini o scostanti. Abbiamo creato questi due profili. Tocchini sono le persone che mentre parlano hanno piacere di accarezzare magari l'interlocutore, di appoggiargli leggermente, non so, una mano sulla spalla. Gli scostanti, si vedono, sono le persone che tengono la giusta distanza e si irrigidiscono nel momento in cui vedono la persona che in qualche modo vuole avvicinarsi per magari esprimere anche la simpatia e l'affetto. Allora, tocchini o scostanti. Maurizio ci chiama da Sanremo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Io faccio l'agente di commercio e mi capita spesso appunto di stringere decine di mani al giorno. E mi è capitato in alcuni casi dove vi sono persone che stringendo la mano allungano l'indice, il medio, e vanno a toccare la parte interna del polso, diciamo la parte dove ci sono le vene. Le fanno il solletichino lì nel polso? È come una pressione, e la cosa la trovo veramente irritante personalmente. Trovo interessante quello di cui state parlando, perché io mi sono avvicinato un po' al discorso della programmazione neurolinguistica e quindi faccio molta attenzione a chi ho di fronte di solito e cerco di comportarmi come, diciamo, la regola che in qualche modo tramite la programmazione neurolinguistica viene proposta a seconda dei vari soggetti, dei vari casi. Riesce in questo modo a entrare in sintonia con l'altro, poi per lei è molto importante per infatti. Il lavoro che fa. Sì, diciamo che ovviamente poi dipende anche dalle situazioni, da un po' i momenti, che però diciamo con questa tecnica tra virgolette si è in qualche modo più vicini a quello che può essere il desiderio della persona con cui nel momento si cerca di impostare una Maurizio decisione. Mamma mia, peccato non sentirla bene, perché dove sta, tra l'altro? Vabbè, Sanremo. Sì, Sanremo. No, però intendevo in mezzo all'autostrada, no, perché sento qua che sfrecciano. Sì. Esatto, sì, sono in mezzo alla bene, strada. Bene, però insomma, bella testimonianza. Però che carino, pensa molto che si è fermato per chiamarci. Esatto. Fatelo anche voi all'800240024. Dottoressa Torti, che cosa ci racconta la telefonata di Maurizio? Beh, direi che come l'esempio di prima, in qualche modo tutto quello che è lievemente spostato dalla naturalezza, quindi se io devo afferrare una mano, afferro la mano. Non vado lievemente oltre, perché questi piccoli cambiamenti vengono percepiti subito. Mm-hmm. Quindi come se io allungo troppo e in qualche modo ho una distanza che non viene ben percepita e risulta quasi sfuggente, cioè dov'è la mano? Non riesco ad afferrare, no? Quindi questo è l'effetto che ci può un po' fare, per questo ci irrita, semplicemente. Non è niente di grave, però sostanzialmente, come diceva il nostro ascoltatore, si può fare attenzione a questo e riuscire a entrare davvero in empatia con l'altro. Quindi accanto alla programmazione neurolinguistica io direi che c'è una specie di intelligenza emotiva che caratterizza tutti noi parliamo di intelligenza, quella classica, no? Quindi il quoziente intellettivo. Invece io direi che tutto quello che riguarda oggi riguarda più l'intelligenza emotiva, quella che parte dalle emozioni e che quindi si esprime prima di tutto con i gesti, con lo sguardo, con la postura. Mm-hmm. Mm? Ci sono delle persone che, come la nostra prima ascoltatrice, sottolineano il loro disagio di stare proprio male dentro il loro corpo, e questo malessere si manifesta nelle condizioni più disparate, ma soprattutto quando abbiamo un appuntamento importante o stiamo parlando con una persona che ci piace in modo particolare. In questi casi, dottoressa Torti, come si fa a ammorbidirci e in qualche modo a ritrovare quell'equilibrio anche di gesti? Che bel termine che hai usato, ammorbidirci. Ed è la parola, una parola molto interessante. Non oggi è la mia giornata, dai. È andata proprio bene. Domani è la mia coi saldi. Dottoressa Torti, diciamo che l'emozione è una reazione psicofisica, quindi tutto quello che dice appunto l'ascoltatrice, ovvero che si sente male all'interno del corpo, è perfettamente reale. Cioè io sento un disagio, la cosiddetta ansia o ansia prestazionale, quindi quando ho un appuntamento importante, o l'ansia intesa quasi come patologia, no? Quanti disturbi di ansia ci sono? È una patologia, o comunque sono delle manifestazioni che si esprimono prima di tutto nel corpo, quindi è il primo motore che si muove proprio e ci agita. Allora, da questo punto di vista, come facciamo? Dovremmo imparare innanzitutto a conoscerci, sapere quali sono, non so, i distretti muscolari che si attivano di più, che si irrigidiscono, dove ci tendiamo, che posture adottiamo, e per questo dobbiamo osservarci e poi successivamente esercitandoci ammorbidirci, ovvero rilassarci, perché il corpo dà un feedback alla mente, mm-hmm. È tutto collegato. Io ho una reazione fisica che va a dare un messaggio al pensiero, e se il mio corpo sta meglio, allora anche io sto meglio con i pensieri. Questo è frutto di un apprendimento, di un esercizio, però è reale. Posso chiedere a dottoressa Torti, esatto, no, le braccia conserte, un tema che a me interessa molto. Qual è il tipico gesto, forse questo è uno di quelli, che in cui si manifesta il fatto che il corpo dice esattamente il contrario di quello che pensiamo? Per esempio, ci viene fatta una richiesta, noi proprio la rifiutiamo mentalmente, però ci tocca dire di sì e magari il corpo dice qualcos'altro, a parte appunto le braccia chiuse. Attenzione, che qui si parla proprio di incongruenza, si crea una sorta di dissonanza che però l'interlocutore vede, per cui una dissonanza tra quello che dico e quello che faccio, mm-hmm. E quello che faccio si vede di più. Quindi si crea questa incongruenza che è molto pericolosa, perché se io devo accettare una proposta e però assumo automaticamente una posizione di chiusura, quella delle mani conserte appunto, sto dando un messaggio ambivalente, e qui si creano quelle tensioni, quelle momenti un po' di critici che non riusciamo poi a sciogliere, a meno che la persona che incrocia le mani riesce a riconoscere quello che sta facendo, quindi a scioglierle, oppure e specificare perché lo fa. Non so, guarda, sto facendo così perché è un po' freddo, no? Quindi in qualche modo posso anche cavarmela, a meno che appunto non devo riconoscere. Il primo passaggio è sempre quello. Non devo andare per automatismi. Questo mi porta a creare tensioni. Vale anche per le gambe accavallate? Direi che è la stessa cosa, sono gli arti si muovono. Il doppio accavallamento? Il doppio accavallamento è un esercizio proprio di stile, direi io. Vuole vedere le mie gambe? Il trapezista. Che poi non è anche tanto comodo, però si fa spesso. Gabriella da Varese. Sì, e poi abbiamo Maurizio da Trento. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, vorrei parlare delle borse delle signore e di come le signore portano le borse. Allora, io faccio la sarta, vengono le signore da me e ho fatto un piccolo studio di come tengono le borse e in relazione a come le tengono immagino già il vestito che mi chiederanno. No, Gabriella, ma che top di gamma, Gabriella. Ascolti, allora. Questo tipico è la signora che arriva con una borsa, magari anche grossa, si siede davanti a me, si mette la borsa in grembo e ci mette sopra le braccia. Come se volesse tenere, non so, un bambino, come fosse incinta, no? E come si veste? E questa sicuramente vuole un vestito tutto accollato, un colorino, mi raccomando, non troppo chiaro, non troppo scuro. Non la barzelletta di Pierino, Non i fiori, che non dia nell'occhio, ecco. E questo mi succede tantissime volte. Se arriva invece una signora con, non so, nella mia generazione si portavano molto le borse sulla spalla, no? Sì. Adesso invece le signore portano la borsa sull'avambraccio. Ecco, quando arriva una signora con la borsa sull'avambraccio, sicuro vuole un vestito corto, molto svolazzante, di un bel tessuto che si muove, magari con dei colori vivaci, con dei fiori, bello scollato. Ecco, un po' charmante. Vedo già un bel capitolo di un libro della dottoressa Torti su tutto questo che questa simpaticissima ascoltatrice ci sta raccontando. Che ne pensi? Tu dove ti riconosci? No, il vestitino svolazzante io no, tu lo sai, però io ho la borsa di Mary Poppins, dove dentro c'è tutto il mondo e i suoi fratelli, Gabriella, quindi non so lei come mi vedrebbe, comunque io molto sportiva, mi porto dietro tutta la casa, esatto. Sì, ma quasi sempre le signore hanno le borse di Mary Poppins. Questo non vuol dire nulla. No, è proprio come la porta, come se la tiene come un senso di sicurezza, se vuole tenersi tutto così. Per cucirci il vestito, Gabriella dovrebbe vederci, ma dottoressa Torti, alla quale tra l'altro le dico molti ascoltatori le stanno facendo i complimenti per come parla, per la sua voce, oltre che chiaramente per tutte le qualità professionali. Io direi che Gabriella ha avuto un occhio attentissimo, perché è proprio così. Io direi che la borsa sul grembo quasi assomiglia a mantenere un bambino in braccio, no? Quindi è una sorta di protezione, e in questo caso parliamo di una persona abbastanza introversa, quindi mi aggancio un po' agli stili di personalità. È il temperamento di una persona che appunto, essendo più introversa, quindi meno tendente a espandersi, chiede appunto un vestito in stile che rispecchi quello che lei ha, e viceversa una persona che invece è abituata a portare una borsa quasi come se fosse su un palcoscenico, quindi un po' più estroversa verso il mondo, lo è anche di personalità e quindi chiederà un vestito adeguato allo stile. Ma anche le persone che portano la borsa sulla spalla, io oserei dire, no? Come andiamo, come camminiamo. Se io devo fare la spesa e devo avere le mani libere, quindi la spalla indica praticità di una persona che deve fare le cose di fretta, tante cose contemporaneamente, e certamente non posso avere anche la borsa sull'avambraccio. Quindi è molto importante questo, ha ragione. Molto interessante. Chissà come porta le borse l'ospite che saluteremo dopo. Nel modo perfetto, più elegante possibile. Vogliamo anticiparlo? Vuoi salutarla già? È già in linea con noi? Sì. Carla? No. Mi sono lasciata trasportare. Informazioni sul traffico. Cuore e denari. È mancato un amico, Giorgio, io ho avuto il piacere di conoscerlo e di intervistarlo, abbiamo fatto con lui una bellissima puntata quando ancora il programma si occupava solamente di salute e insomma io lo sei cuore un po'... Ti vedo che sei un po' colpita. Era una persona davvero straordinaria, di solito si dice così, è sempre vero, quando le persone non ci sono più, e questa è un'occasione per riflettere quando abbiamo di fianco una persona che apprezziamo, amiamo e con cui siamo in sintonia, diciamoglielo, ma un saluto a un amico. Bene, ritorniamo al nostro percorso che stavamo facendo sulla gestualità e avevamo preannunciato, un po' complicato riprendere, però riprendiamo appunto, bisogna farlo. Allora, avevamo preannunciato un ospite speciale alla quale dobbiamo chiedere intanto come indossa la borsa, ma sicuramente tutti gli affezionati di Carla Gozzi sapranno benissimo come la porta, perché la vedono in televisione fare 2 milioni di cose come tutte le donne. Carla, buongiorno e benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno ragazzi, ciao Nicoletta, ciao Deborah, come ciao, state? Noi benissimo. Benissimo, grazie. Adesso, insomma, sì. Eccoci qua. Style coach, ecco. Ma insomma potremmo definirla veramente una donna tra le più poliedriche che abbiamo mai conosciuto. Carla, come tutte le donne, come avete esattamente detto voi, no? Hai per caso ascoltato la telefonata dell'ascoltatrice precedente, sì, di Gabriella Davarelli? Sì, ho avuto occasione di ascoltarla e direi che appunto mi associo, perché io dico sempre, noi siamo ciò che indossiamo, come è vero noi siamo ciò che mangiamo, no? Ed è molto vero, il mio mestiere di style coach vive su questi piccoli elementi da cui io poi traggo le personalità delle mie clienti, quindi è vero, la borsa, ma poi ci sono tantissimi altri diciamo indizi, non so, l'accessorio, il trucco, oltre al portamento, la gestualità, la lunghezza della gonna, l'aderenza, i colori, insomma, quindi si potrebbe veramente non far parlare una donna e scoprire esattamente qual è il suo passato, il presente e i sogni attraverso questi indizi. E gli uomini invece dobbiamo fargli parlare per il borsello, tenetelo a casa, ecco, esatto, ecco, non vi, sì, ecco, gli uomini diciamo dobbiamo fargli parlare un po' di più, perché loro sono un po' più pratici tendenzialmente, quindi sono meno soggetti a lasciarsi indurre, no, dalla tentazione, e però anche con loro ci sono parecchi segreti sui quali noi possiamo appunto verificare un po' la personalità, ecco. Ma noi, Carla, stamattina stiamo focalizzando l'attenzione sulla questione della gestualità. Secondo te, per essere eleganti, ci sono dei gesti precisi? Allora, per una donna sicuramente è il portamento, la prima cosa che si nota in una donna, quindi il portamento leggiadro, dico io, no? Io sono una fautrice del tacco, ma non il tacco a tutti gli effetti, ma soprattutto anche il tacco che tra l'altro questa stagione di tendenza non è altissimo, i 5, 4, 5 centimetri. Quello che piace anche agli ortopedici, Carla. Beh sì, perché in effetti fa, come dire, tiene la colonna vertebrale in una posizione idonea, anche agevole. Ecco, questo tacco rende il portamento molto elegante, perché induce a non appesantire il peso su tutta la pianta del piede, ma a tenere questo atteggiamento quasi di leggerezza, no? Di appoggiarlo con delicatezza a questo piede. Quindi il portamento è la prima cosa. La seconda cosa, siete pronte? Mamma mia, dai, siamo cuffiate e a posto. Tanto siamo sedute. Ecco, la postura del collo, cioè come noi teniamo le spalle, come noi muoviamo la testa, quindi il collo. Pensiamo alle regine, no? Come quando vengono riprese, ma non solo, quando sono negli eventi pubblici, come tengono il volto, il viso leggermente rialzato, inclinato di 10 gradi, ecco, quindi il collo e le spalle sono un altro punto fondamentale, e poi le mani, ecco perché si dice che la mano deve essere curata al 100%, manicure, pelle idratata, perché le mani sono una terza cosa che si nota moltissimo sulle donne. E subito Nicoletta, ecco, mi ha mostrato la manicure fatta proprio no. Io spendo due parole anche per gli uomini. Sì. Anche le mani degli uomini devono essere curate. Un po' curatine. Ecco. Certo. Non trasandate, perché l'occhio della donna cade anche lì. Sulle mani dell'uomo è una delle prime tre cose, direi. E le altre due, lo sai che per me è l'altezza. La seconda cosa ve la dico io, il beauty, cioè adesso che sai che va tanto di moda la barba, ma attenzione signori uomini, che non sia in corsa, la barba deve essere tenuta. Bellissimo. Perfettamente, il pizzetto, mon amour. Un dress code professionale sulla lunghezza della barba, sulle base, insomma c'è una storia proprio dietro. Allora Carla, noi adesso ci avventureremo sul terreno dei saldi. Periodo nel quale possiamo sbizzarrirci, possibilmente se le tasche lo permettono. Esatto. Si può essere alla moda guardando anche al portafoglio? È possibile questo rapporto? E direi di sì, anzi, oggi come oggi è la cosa più importante. Allora c'è una strategia, no, per non sbagliare ad acquistare nei saldi, quindi si saldi chi può, è meglio non dirlo, ma in realtà la prima cosa è guardare il guardaroba, quindi fare una verifica, cosa manca nel nostro guardaroba, cos'è che vorremmo avere. Pensate ragazze che i primi tre errori, questo vale per le donne principalmente, errori di una cattiva immagine di se stesse, partono da non valorizzazione, quindi non sappiamo valorizzare il nostro fisico per colore, performe. Il secondo errore è l'adeguatezza, cioè le donne ovviamente hanno dei cicli di vita, passano delle età più o meno felici, quindi bisogna adeguare il proprio look, no? Quando siamo molto giovani magari le gonne possiamo indossarle cortissime come gli short, dopo forse è meglio allungare un po' questi orli. Terza situazione, l'occasione d'uso. Sbagliamo spesso a creare il nostro look per le diverse occasioni d'uso e anche gli accessori fanno, è vero Carla, mamma mia. Esatto. Faccio sempre le valigie sbagliate, un disastro. Devo farmi aiutare. Devo fare una bella chiacchierata con te, infatti, a quattro occhi, quindi, come si suol dire. Sì. Sulla base di questo elenco, capire cosa ci manca. Dobbiamo valorizzarci maggiormente, abbiamo bisogno di capi magari più colorati, ecco che il saldo va orientato a questo bisogno. Ottimo. Oppure età, magari abbiamo avuto, non so, il primo figlio, la nostra rotondità ancora non si è, diciamo, dissolta, quindi dobbiamo adeguare alcuni look. Oppure nuovi impegni a settembre, abbiamo un nuovo lavoro, abbiamo una nuova missione, occasione d'uso, quindi forse dobbiamo acquistare qualcosa che ci adegua a questi nuovi impegni. Dopo tutto questo viene la tendenza moda, quindi vedete che prima ci sono i bisogni veri e poi dopo la tendenza. Insomma, non andare a fare i saldi senza aver ripassato queste regole, perché è un po' come andare al supermercato con la fame o come mandare il curriculum a pioggia. rischi di mettere tutto nel carrello e poi di comprare tutto quello che non ti serve. È vero. Vorremmo venire a fare i saldi con te, Carla, questo lo sai. Adesso magari per questi non ce la facciamo, ma per gli invernali preparati, ti prenotiamo, dai, per tempo. Grazie. Grazie tante. Vi invitiamo anche i nostri ascoltatori a visitare il tuo sito, il tuo blog, perché è veramente un serbatoio di tante idee intelligenti e molto interessanti. Grazie a Carla Gozzi. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per non siamo impazzite con questa canzone, ma siamo alla stessa spiaggia, stesso mare, stessi saldi. Cos'è che ha detto prima Carla? Si saldi chi può, ecco, ha coniato questo nuovo concetto molto carino. Tornano puntuali come ogni estate, le aspettative dei commercianti sono alte, anche se non si esprimono per scaramanzia. I consumatori vorrebbero approfittarne quanto più possibile, anche per cogliere i suggerimenti dati da Carla Gozzi, rinfrescare look e stile, ma il portafoglio per molti piange, quindi anche i saldi. Stanno molto attenti, molto oculati. Più ottimisti pensano che gli 80 euro che Matteo Renzi ha messo in busta paga, non nella nostra, possano finire nei registratori di cassa dei negozi di abbigliamento. E comunque, a parte tutti i preamboli, domani prende il via la stagione dei saldi nella maggior parte delle grandi città italiane: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia e tutte le altre. Cosa vi comprerete? È da tutto l'inverno che prendete di mira un capo e finalmente ora potrete comprarla ad un prezzo più accessibile? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Stessa spiaggia, stesso mare, stessi saldi, ma quest'anno con una novità, come anticipavi, i famosi 80 euro di Renzi. Chissà però se faranno davvero la differenza, come si dice, perché le associazioni dei consumatori accennano un tono leggermente positivo. Ad esempio il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha detto che il bonus aiuterà il commercio, contribuendo a contenere la riduzione delle vendite, ma non potrà fare i miracoli, perché le famiglie preferiranno dirottare i soldi non sui saldi ma sui consumi. Infatti, primari. Allora, noi tra l'altro dobbiamo già dare la linea al giornale radio, ma una prima battuta ad uno dei prossimi ospiti possiamo già concederla. Roberto Manzoni, presidente nazionale della FISMO, Federazione Italiana Moda di Confesercenti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Presidente, buongiorno. Naturalmente voi sperate che gli italiani spendano qualcosa di più di 80 euro. Ma sarebbe già importante che spendessero un euro più di l'anno scorso. Che era? Nella situazione 118, non mi ricordo il numero, ma non è questo il problema. Il problema è che in un clima dove aumenta la disoccupazione, i dati di ieri ci danno ulteriore calo dei consumi anche nel settore alimentare, riuscire a fare un euro più dell'anno scorso sarebbe già un successo. In questo clima, in questa situazione economica, sociale, politica, di tensioni, difficoltà, noi riterremmo già questo un successo. Benissimo. Cuore e denari. Avete presente quando incrociate due begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio. E dopo dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che... $320 per una muta da sub! $787 di biancheria intima! L'intimo è un diritto umano inalienabile. Ti vuoi comprare la muta da sub, Nicoletta? Veramente ce l'ho già io la muta da sub. Dai, ti prego! Sì. Sì. Dottoressa Torti, devo fare due chiacchiere con lei. È abbastanza su particolare, come direi. Perché? Scusa, io ce l'ho non quella lunga, ma quella mezza coscia. La tutina? Sì, e io ma ti devo dire che la uso anche quando freddo, perché io sono una freddolosa. La Laura vuole che io vi mostri la foto della tutina. La posterò. Anzi, niente, io partita, con la mutina. Tu son pensavi? Sono partita con lo scherzo e invece sono stata sorpresa. Ce l'ho. Ottimo. Allora, per chi la volesse comprare, sappiate che potete approfittare della stagione dei saldi che ufficialmente si apre domani e sarà molto importante anche l'accoglienza del commesso e la sua gestualità. Assolutamente, adesso noi la osserveremo e con la dottoressa Torti naturalmente potete anche chiamare per parlare del vostro stile nell'acquisto. È oculato, è compulsivo, prendetevi, fate poi prendere dei sensi di colpa, per me è un classico, compro poi dico guarda un po'. Diciamo che per lavoro a noi serve essere un po' più attrezzate nell'armadio, però questa non deve essere la totale giustificazione. Allora, vi abbiamo già presentato Roberto Manzoni, presidente nazionale della FISMO, la Federazione Italiana Moda Riconfesercenti, ma salutiamo anche Liliana Cantone, responsabile dell'ufficio stampa, Dipartimento Relazioni Esterne di Altro Consumo. Dottoressa Cantone, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno a tutti voi, grazie. Buongiorno. Perché qua anche l'occhio vigile delle associazioni dei consumatori non manca in queste circostanze. Allora, Manzoni prima diceva, Nicoletta l'abbiamo sentito, io spero che almeno anche solo un euro in più rispetto alla media della spesa fatta lo scorso anno sarà già qualcosa per i commercianti, ma insomma c'è un po' di cauto ottimismo, ma ancora si attende naturalmente di vedere domani che intensità ci sarà nell'acquisto da parte degli acquirenti. Su che cosa vogliamo proseguire? Magari con gli ascoltatori che ci raccontano anche già qualcosa. Ivana aveva già scritto all'inizio della trasmissione: io spendo sempre con i saldi, sono disposta a spendere circa 100 euro e di solito compro magliette sportive e pantaloni. Ma Manzoni, generalmente durante i saldi quali sono appunto le categorie, diciamo, merceologiche che vanno di più? Di che cosa approfittano di più gli italiani? Allora, sicuramente le cose meno costose. Quindi invece che incidono meno sul portafoglio. Invece di fare il contrario, no? Se c'è il capo costoso che durante l'anno non ci siamo magari il famoso capo spalla. Ecco. Sì, quello che purtroppo oggi non si vende più. Addirittura. Ma lei ride, però in realtà so che siete molto preoccupati per questo. Purtroppo sì, il parere fra gli imprenditori è impostato al pessimismo. Io invece ho sempre detto che per fare l'imprenditore bisogna essere ottimista, per cui il bicchiere è mezzo pieno. Mi auguro di fare un po' più di anno scorso. Chiaro che la situazione economica, come dicevo prima, non è entusiasmante. Disoccupazione, consumi, dati ISTAT dicevo che hanno dato una diminuzione dei consumi dell'alimentare, figuriamoci che volontà c'è di passare all'abbigliamento. L'altro è il problema politico-sociale, tutti contro tutti, tutti a litigare, questo crea sconforto e sfiducia nel futuro. Io però sono convinto che anche solo gli 80 euro diano un segnale, non dico di ottimismo o di rilancio dell'economia, non è sufficiente. Però primo segnale, perché dicevo prima, qualcosa più dello scorso già per me sarebbe un'inversione di tendenza, dove si smette di calare, come purtroppo il mondo della moda da subito da 6-7 anni, e poi dal 2015 speriamo la ripresa. Se smettessimo di scendere saremmo già un bel passo avanti. Manzoni, quanti giorni vi serviranno per capire se le cose sono andate un po' meglio dell'anno scorso? Ma io ancora prima che cominci a salire, il primo weekend andrà bene comunque. Perché c'è l'entusiasmo. Gli anni è un segnale dove l'acquisto compulsivo che citava prima, proprio di chi attende i saldi e i primi giorni hanno successo. E poi i negozi sono ancora molto riforniti, per cui è chiaro che... Il problema diventa i due mesi che adesso durano i saldi. E fra qualche settimana non c'è più nessun interesse, anche perché, mi perdoni la critica, i media sono interessati ai saldi da ieri a dopodomani, poi non interessano più nessuno. No, guardi che noi tante trasmissioni sui presaldi le abbiamo fatte in passato, facendovi anche arrabbiare particolarmente, perché so che voi su questa situazione, su questa circostanza siete necessariamente molto critici, ma però come si può contestare l'atteggiamento di un negoziante, di un commerciante che per attirare clienti, come dire, pratica degli sconti ben prima che partano quelli ufficiali, no? Possiamo sentire l'associazione dei consumatori cosa pensa di tutto questo? Liliana Cantone, polemica che ormai da 3 anni commentiamo sempre. È corretto, ma io condividerei, e noi come Altro Consumo condividiamo quello che Rosciani ha appena detto, cioè la situazione è cambiata, è un'ovvietà, probabilmente è un luogo comune, ma noi come consumatori registriamo anche le segnalazioni che arrivano alla nostra consulenza, ci troviamo di fronte a questo scenario. Avere due periodi di saldi durante appunto 12 mesi, un anno, è una situazione anacronistica. La crisi ci ha chiesto maggiore oculatezza nelle scelte di consumi, dove investire quei pochi soldini che abbiamo, che possono essere stati rimpinguati appunto da scelte politiche recenti, interessanti, però siamo tutti più oculati, la febbre e l'attesa spasmodica per l'inizio dei saldi non c'è più, lo sappiamo tutti, anche perché ci troviamo di fronte ad un contesto economico dove i player sono evoluti ed esiste un negozio aperto 24 ore su 24 che fa sconti e diciamo saldi, che è l'online, che è l'online. Adesso ci sono dati molto interessanti che sono stati forniti da Netcom, per esempio la School of Management del Politecnico di Milano, recenti: nel 2013 il 20% degli italiani hanno acquistato online, una media al di sotto della media estera che pone tutti i paesi attorno al 47%, ma la cosa interessante è che per il 2014 è prevista una crescita del 17% di questo compagine di italiani che compra online. Cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte c'è stata un po' di contrazione, diciamo, nella voglia di acquistare, ma sono cambiate le abitudini di acquisto e quindi di approfittare dello sconto. Lo sconto online, come sappiamo, è possibile e la domanda incontra l'offerta in qualsiasi momento dell'anno. Dottoressa Cantone, poi lei ci darà anche altri consigli, ma quale sarà la cosa a cui lei farà più attenzione? Le anticipo che la dottoressa Torti, dalla sua risposta, è probabile che tratteggi un suo profilo, per cui dottoressa Cantone avvisata, dottoressa Cantone salvata, e lo dico anche ai nostri ascoltatori. Cercate di raccontarci all'800 24 00 24 come vi ponete di fronte all'acquisto dei saldi e che cosa fate attenzione per dire questo non mi frega. Dottoressa Cantone, partiamo da lei. Intanto, che cosa compra domani? Niente. Ho già comprato online, ecco, probabilmente appartengo alla compagine. Ecco qua, Manzoni in questo gineceo non ci vorrà più venire, tra l'altro, visto che siamo tutte donne questa mattina. Ecco, quindi diciamo le regole. Essenzialmente quello che credo facciamo tutti, e le segnalazioni ai nostri cittadini ce lo confermano, è di iniziare ad aprire gli occhi prima, cioè focalizziamo la nostra attenzione di consumatori su ciò che ci interessa, e questo, come dicevamo prima, viene sempre, tutti i giorni qualcosa attira la nostra attenzione. Bene, memorizziamo il prezzo e poi vediamo nel momento in cui il commerciante proporrà la merce scontata qual è effettivamente la percentuale di risparmio che possiamo ottenere acquistando durante il saldo. Purtroppo, ai noi, talvolta questo risparmio non c'è, perché alcuni esercenti, non tutti bisogna dirlo, però alcuni, noi abbiamo fatto delle inchieste non recentissime ma che fotografavano molto bene questa situazione, cosa facevano? Creavano, diciamo, una falsa aspettativa, perché si chiama è una pratica commerciale scorretta, comunque non è corretto, una falsa aspettativa nei confronti del consumatore, laddove proponevano la merce con uno sconto roboante, e in effetti che cosa avevano fatto? Questo sconto era calcolato su un prezzo che il giorno prima era stato ritoccato verso l'alto. Ecco, quindi un consiglio: ad occhiare i prodotti che ci interessano prima, in qualsiasi momento durante l'anno, in modo che poi poter verificare se lo sconto è vero. Quindi la dottoressa Cantone è un'anticipatrice. Io direi anche un'analitica, no? Ha una maniera di procedere molto analitica, quindi il confronto prima e dopo, giustamente per prepararsi a quello che poi è l'acquisto. Quindi una modalità, uno stile cognitivo si chiama, no? Di processare delle informazioni, di visualizzare, di confrontarle e poi di agire. Che cosa ci provoca il saldo, dottoressa Torti? Insomma, quale meccanismo si scatena nel consumatore che è dentro di noi? Come il cibo, gli alimenti e quindi anche tutto quello che poi ci rende più belli, ovviamente i vestiti, tutto quello che il commercio propone, sono degli elementi che danno gratificazione. Quindi quello che accade nel cervello è proprio una sorta di scarica di endorfine che ci arriva e quindi ci spinge a prendere quell'oggetto. La gioia fondamentalmente è il prendere una cosa che mi piace. La gioia contrario all'emozione. Sono contento quando ho una cosa che mi piace. Infatti acquistiamo quando siamo giù per tirarci su, oppure acquistiamo perché siamo felici. Esatto. Acquistiamo, sarebbe anche interessante capire se acquistiamo con più piacere per noi o per gli altri. Siamo più portati a spendere durante i saldi per acquistare qualcosa per i nostri figli, per nostro marito, per l'amica, oppure siamo noi per prime a gratificarci? 800 24 00 24, un altro stimolo per i nostri ascoltatori per provare a conoscersi di più attraverso anche dei gesti semplici come quelli del linguaggio del corpo, anche dei gesti che facciamo due volte all'anno quando andiamo a fare i saldi. Esatto. Intanto Max ci scrive al 349 238 6666: io ho negozi di abbigliamento in centri commerciali, un altro spauracchio. Di Manzoni, a cui poi faccio commentare anche questo messaggio: mi auguro che i saldi ci aiutino a colmare il vuoto di questo primo semestre. E poi, ma che acquisto compulsivo, impulsivo, ci dice Stefano da Pordenone: io se non faccio almeno 5 preventivi non sono contento, arrivo anche a 20, Stefano. E va bene, prendiamo atto anche di questa sua abitudine. Ma direi, Nicoletta, che io adesso voglio fare anche un po' l'avvocato del diavolo, perché abbiamo abbiamo sentito le considerazioni di Liliana Cantone, di Altro Consumo, delle associazioni dei consumatori: fate i confronti, non fate l'acquisto impulsivo, controllate il cartellino del prezzo, il prezzo che c'era prima, valutate se la percentuale di sconto è reale o meno. Ma Manzoni, andiamo di nuovo ai nostri esercenti, perché quando ci presentiamo da voi durante i saldi, la vogliamo cotta, la vogliamo cruda, vogliamo cambiare quando ci pare, facciamo le pulci al cartellino del prezzo, ma insomma facciamo anche il galateo dell'acquirente? No. Credo sia lo stesso, perché stiamo parlando di situazioni che io dico sono esattamente uguali. Un acquisto consapevole parte dal ragionamento di andare a frequentare negozi che si conoscono i prodotti, si conoscono i venditori, per cui che sia un centro commerciale o un centro storico non cambia niente. Adesso mi riferisco alla lettera di prima, dicendo negozi, centri commerciali, cosa cambia? Quello che vince oggi sul mercato è la serietà e la qualità del prodotto e la serietà del venditore. Poi non conta dove è collocato, conta se è una persona seria, se non truffa i clienti. E mi permetto di dire che è vero, qualcuno fa il giochino del finto sconto, sì, rialzando il prezzo, ma sono una piccolissima minoranza. Parliamo di 180.000 negozi di moda in Italia. E quindi c'è il 15% di della convergenti, ma non è questo il problema. Il problema è che parliamo di qualche furbo che fa il furbo, ma la stragrande maggioranza è gente seria che tira la carretta e che fa fatica a pagare le tasse e che chiudono non a caso 1 gennaio, 30 maggio, 5.700, 5.200 negozi d'abbigliamento chiusi. Sì. Il che vuol dire che c'è gente che si sacrifica, fatica, sfrutta il lavoro familiare, e ce lo dimentichiamo, le nostre piccole e medie imprese alla fine sfruttano delle famiglie perché non riescono più a pagare i dipendenti e quindi crescono i disoccupati, 12,6, anche se comunque la piccola e media impresa è quella che sta tamponando la fuoriuscita dall'industria. Ma al di là di questo, parliamo di migliaia di persone che fanno sacrifici per riuscire a stare sul mercato, per dare un servizio e per garantire una qualità. Certo. Quando noi ci raccomandiamo di diffidare degli sconti eccezionali, perché non sono commercialmente credibili. Quali sono gli sconti eccezionali, dottor? Ecco, il 70% il 70% prende in giro un cliente. Ecco. Io che vendo 12 mesi, da 40 anni vendo un prezzo al pubblico, io faccio sconto del 30, fra l'altro io lo faccio in agosto, non da domani. Per me la fine stagione è la fine stagione. Come si faceva una volta. Come si faceva una volta. Io sono vecchio e faccio come si faceva, però sono l'eccezione. D'antan. La norma è quell'altra, parte domani. E qui c'è il rispetto del cliente. Il cliente che ha comprato ieri capisce benissimo che io a fine stagione faccio lo sconto del 30%. Ma chi ha comprato ieri e oggi fa il 70% è giusto che non metta i piedi nel mio negozio. È così. Se fa la valutazione. Questa è la selezione, certo, del mercato, non le leggi. E poi servono anche quelle. Ma il consumatore, che oggi è molto più oculato di una volta, io credo che li stia valutando queste cose e facendole. Non a caso, ripeto, 5.000 erotte attività chiuse dal 1 gennaio 30. Allora, Manzoni, conosciamo allora bene. Prima di dare la linea a Mario da Prato, sì, no, rido a perché noi chiudiamo? Ragazzi, no, perché non abbiamo ancora avuto indicazioni su, perché noi possiamo anche andare avanti fra un minuto e mezzo. Dai, leggo solamente il messaggio di Bracciola, che è un nostro amico affezionato, che lui guarda sui saldi, guarda com'è la commessa. Ecco, dottoressa Torti, lei qua potrebbe scrivere un bel capitolino anche sul nostro amico Bracciola, che però ha ragione. Nel senso che anche quando noi guardiamo il commesso, assolutamente, ma guardiamo come si muove, come ci accoglie. Quando noi entriamo in un negozio, entriamo in una casa di qualcuno e siamo, come dire, no, sull'attenti nel vedere come ci accoglie. Se una persona assume una prossemica, quindi un modo di spostarsi nello spazio, di avvicinarsi a noi, di guardarci, di parlarci, noi possiamo essere accolti bene oppure possiamo essere accolti male. Quindi possiamo anche uscire dopo 30 secondi dal negozio se quel commesso non ci sta. E ci sono anche commesse che guardano, che ti fanno sentire una taglia più forte. Dov'è o più ridotta? Questa commessa che vado a cercarla no, domani? Perché ci sono delle commesse che ti fanno sentire molto a tuo agio, oppure ti fanno sentire un po' fuori taglia, oppure troppo magra, e quindi il giudizio della commessa conta. Abbiamo tempo di sentire Mario da Prato. Se in 10 secondi fa il suo commento, la mandiamo in onda. Mario, veloce. Buongiorno, allora io praticamente mi muovo sulla base del mio stato di necessità, cioè quando ho bisogno vado. Per quanto riguarda i capi di abbigliamento, prevalentemente durante tutto quanto l'anno mi servo agli outlet, perché è una pratica commerciale che hanno ovviamente istituito gli imprenditori. Invece per quanto riguarda qualche cosa di tecnologico, anche io con il precedente messaggio mi trovo in sintonia, cioè grandi preventivi, guarda l'online. Niente. Allora, con Manzoni lo richiameremo magari e affronteremo anche questo grande tema del cambiamento delle modalità per fare appunto compravendi. Grazie a tutti per essere stati con noi. A Liliana Cantone, alla nostra dottoressa Tatiana Torti, Pietro La Corte, Laura Vanossi, Marco Lombardo. E a noi buon weekend, ci sentiamo qua, pronti, puntuali, lunedì.